difficoltà. Ma non pensare che non ho amore per te, perché io ti voglio bene. Tutto quello che vorrei con questa canzone, io voglio far capire che sei sempre nel cuore mio, anche se non sei con me. Perché sei tu, sei un cosa da poco lo so. Non è una scusa buona il fatto che la vita è frenetica, perché se voglio so trovare tempo per te. Ti prometto che mi sforzerò di dirti le cose che quello che vorrei con questa canzone, io voglio far capire.